Thank you. carni tagnier, ma su poco giugali. Canta il diavolo la divina, con questo cuore. Con nostro cuore parlando. Solo, solo, como lo haré yo todo, todo solo. Como lo haré yo todo, solo, solo. Como lo haré yo todo, todo solo. Como lo haré yo todo. Hola, va, a mi casa iredes, mi mujer, vos, la visita eres, a mi gente, vos, me la mantenedes, y si suelos vos, me los criaredes. Andaremos solo, todo, solo, solo, como lo haré yo todo, todo solo, como lo haré yo todo. Come este aparejado, con sazón, con cocido y asado, y el corral bien barrido y regado, y si hay falta vos, habéis mal recaudo. Yo alabado solo, solo, todo, todo, solo, solo, como haré yo todo, todo, solo, como haré yo todo, solo, solo, todo, todo, como haré yo todo. Auger solo durum Dena tau se sola durundo e tau in da bla durundo. Canta sola durundo e tau se sola durundo e tau in da bla durundo. Non ci vede da un po' lì, tutte snada che sta lì. Lo si fersa la scarnito, l'inferno una cammena. Che la senza de fornir de cascons per bella estrena. O Gesù si combinava, con lo sogno ben sbagliato, la non l'aire non tombava, ni caia nell'arena. Mucho tercio pelo, no creas divinità segreta. Elegite, viva l'opera, viva te valde, viva te valde. Oh, Si dice, ne dica, si dice, ne dica.